signore, questo è il vostro conto. Il vostro conto, sì. Ho perso il conto delle cose che ho comprato, di quelle che ho pagato. Ho perso il conto delle giacche che ho indossato, delle pizze che ho mangiato. Ho perso il conto degli amici che ho perduto, di quelli ritrovati. Ho perso il conto delle donne che ho avuto, di quelle che han tradito. Guardati intorno, renditi conto, c'è qualcosa di sbagliato. Non essendo ascoltato, ho perso il conto delle canzoni che ho cantato, delle volte in cui ho suonato. Ho perso il conto dei libri che ho studiato, degli esami che ho dato. Ho perso il conto dei lavori che ho cambiato, pur essendo laureato. Guardati intorno, renditi conto, c'è qualcosa che va cambiato. Ho perso il conto dei capelli che ho perduto, di quando son caduto. Ho perso il conto del disgusto che ho provato per i programmi che ho guardato. Ho perso il conto delle volte in cui i soldati per la pace hanno marciato. Ho perso il conto delle volte in cui dei pazzi per una croce hanno ammazzato. Guardati intorno, renditi conto, c'è qualcosa di sbagliato e va cambiato. Il conto dei politici corrotti, dal denaro ossessionati. Ho perso il conto dei contratti di lavoro, figli del precariato. Ho perso il conto di quando mi sono alzato, preferivo star sdraiato. Ho perso il conto.